In realtà si tratta di qualcosa di stupefacente, nel senso che noi abbiamo non più di 15 giorni fa abbiamo avuto un incontro, una due giorni anzi, sulla casa, organizzata da più di metà consiglio comunale, con la presenza dell'assessore alla casa, di ASP, di Università, Curia e tutti i soggetti che avevamo coinvolto insieme a Stefano Bonaga in un discorso unitario che partiva dal presupposto che la questione casa, diciamo, è un problema che tutti riconoscono come tale, come urgente, come drammatico, e in quella circostanza non è stato detto nulla sull'idea di un'alienazione dell'entità di cui parliamo, cioè moltissimi appartamenti, certo le cui condizioni non conosciamo, infatti su questo Coalizione Civica sta predisponendo una interrogazione. In secondo luogo mi chiedo, ma abbiamo valutato per davvero la possibilità che un progetto europeo, una collaborazione con la università, un'ipotesi di autorecupero vero e proprio potesse rappresentare una soluzione diversa da quella dell'alienazione? O c'è un problema di cassa? Qual è il nodo? Francamente, che tutto questo sia accaduto, che sia accaduto senza investire i consiglieri che si stavano occupando insieme alla giunta del tema della casa, e che sia accaduto senza ponderare attentamente valutazioni alternative, passare dal consiglio e quant'altro, mi pare obiettivamente inquietante. La cosa appare anche ancor più schizofrenica perché proprio in settimana sono successe due cose. Il sindaco ha formalizzato la manifestazione di interesse per acquisire degli immobili sequestrati, confiscati alla criminalità organizzata, in particolare Villa Celestina, proprio per fare appartamenti per le famiglie in difficoltà. E sempre il comune ha detto di volere mettere un bando con 1,5 milioni di euro per aiuto per l'affitto alle persone con un ISEE basso. Diciamo che se dovessi sintetizzare la posizione della giunta in questa fase, ecco, mi verrebbe in mente quella vignetta di Altan: inizio ad avere delle idee che non condivido. Ecco, sembra un po' questa. Io spero che la giunta chiarisca, che non si trinceri dietro al fatto che l'ASP è un ente indipendente e che quindi, diciamo, faccia finta di dimenticare che ne abbiamo la stragrande maggioranza, come è noto, e che in qualche modo si provi a dare una risposta non schizofrenica ma unitaria a un problema che solo ieri l'altro veniva raccontato da tutti sui giornali come un problema molto serio, anche per figure che un affitto possono pagarlo, che una casa possono pagarla, perché magari in quanto migranti, stranieri o studenti non riescono a trovare un accesso al mercato abitativo dal punto di vista delle opportunità, anche perché non funziona l'agenzia per l'affitto. Ristrutturare l'agenzia per l'affitto, fare un investimento vero sul tema della casa, sperimentare anche soluzioni di recupero del patrimonio immobiliare originali, innovative, credo che sia la scommessa di una giunta che vuole provare a risolvere il problema a casa. Vendere è invece obiettivamente una follia. Ecco, nel vostro comunicato sottolineate due dei problemi che si sono manifestati negli ultimi tempi: da un lato la difficoltà degli studenti fuori sede di reperire alloggi anche per la crescita delle locazioni turistiche, dall'altro l'allarme lanciato ieri dalla dirigente comunale sull'impossibilità di fatto di affittare case per richiedenti asilo. Quest'ultimo aspetto forse dice che la città ha un po' di problemi anche di razzismo? Diciamo che è una città che continua ad alimentare quello che potrebbe chiamarsi l'imprenditoria politica della paura, nel senso che si continua a buttare benzina sul fuoco anche da parte dei consiglieri di maggioranza. Non capita consiglio che non ci sia qualche invettiva contro i lavavetri e il pericolo che rappresentano. Quindi, diciamo, c'è un problema anche di razzismo indotto, perché quando tu rappresenti un'emergenza come tale, anche quando non lo è in concreto, induci comportamenti sociali diversi da quelli che sarebbero opportuni o desiderabili. Al di là di questo profilo c'è un tema, e cioè il tema è fare funzionare un'agenzia pubblica per l'affitto che non ha mai funzionato, e ristrutturandola, rifinanziandola, dandole una centralità che purtroppo non è riuscita ad ottenere, e diciamo, e questo è un grande tema che incrocia l'aspetto della città accogliente, della città ospitale, e invece si scontra con l'idea della città turistica col centro salotto che espelle coloro che non ce la possono fare e diventa, diciamo, la città delle piattaforme come Airbnb, dove esistono solo city user, turisti e frequentatori occasionali. Ben inteso, io non nego affatto che il turismo possa essere una grande opportunità di sviluppo per Bologna, così come non nego che possa esserlo l'idea di una city of food. Il problema è capire se Bologna saprà accettare questa sfida scegliendo una via alta alla città turistica, alla City of Food, dal punto di vista della tutela del lavoro che consente di essere una città di questo tipo e dal punto di vista della inclusività rispetto ai nuovi cittadini.